Immaginate un cortile vastissimo, circondato da mura alte 3 metri, con alcuni edifici su un lato. È il campo di prigionia di Satorin, dove sono rinchiusi i comunardi scampati alle fucilazioni e ai massacri. Siamo qui, ammucchiati a migliaia. Per letto abbiamo il terreno nudo o mucchi di paglia infetta. Per cibo crosta di pane nero e l'acqua piovana per la sete. La notte siamo obbligati a stenderci in pozzanghere di fango. È stato impartito l'ordine di stare coricati, ma è impossibile rimanere 8 ore stesi in questa cloaca. Nelle mura sono state scavate feritoie e dietro ogni feritoia c'è una sentinella armata di fucile, oppure una mitragliatrice, oppure un cannone armato a mitraglia. Al primo movimento, al primo tentativo che facciamo di alzarci dalle pozzanghere, i fucili, le mitraglie, i cannoni sparano sul mucchio. Per latrina abbiamo un angolo del cortile in faccia a una feritoia, un mucchio di terra dietro al quale andiamo ad accoccolarci. Ma se rialzandoci mostriamo la testa alla sentinella che sta dietro la feritoia, per noi è finita. Sul muro, tutto intorno ci sono attaccati pezzi di cervello. Noi siamo la Comune. Noi siamo la Comune di Parigi. Noi che nell'estate del 1870 fummo mandati a combattere una guerra che doveva consolidare il prestigio di Napoleone III. Noi che abbiamo resistito ai prussiani dentro Parigi assediata e affamata. Noi che abbiamo creduto di rifare la vita. Noi eravamo la Comune. On l'a tué à coups de chasse-faux, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme Fauche rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes, et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Luglio 1870. Per consolidare il suo regime vacillante, Napoleone III ha dichiarato guerra alla Prussia. L'esercito francese è impreparato allo scontro con la poderosa macchina bellica messa in piedi da Bismarck e von Moltke, ma nessuno ci vuole credere. Il popolo è ingannato, intossicato da un'intensa propaganda guerrafondaia. Primo settembre 1870. Napoleone III, rinchiuso con 100.000 uomini nella sacca di Sedan, si arrende senza combattere, consegna la spada ai prussiani e si rimette alla clemenza del vincitore. Domenica 4 settembre, Parigi. La folla invade l'aula del Parlamento, dove si sta per decidere la decadenza dell'impero e la nascita della Repubblica. Il deputato repubblicano Jules Favre chiese di parlare e disse che la Repubblica non doveva essere proclamata nell'aula del Parlamento, ma all'Hôtel de Ville, il municipio. Lì era stata proclamata la Comune Popolare nel 1789. L'Hôtel de Ville era già stato occupato da rivoluzionari blanchisti e dagli internazionalisti. Nel cortile la bandiera rossa e quella tricolore si disputano il posto. Nella sala del trono numerosi oratori arringano la folla. Il repubblicano Gambetta dimostra che soltanto i deputati di Parigi sono adatti a governare. Mentre l'imperatrice Eugenia fugge da una porta secondaria delle Tuileries, la Repubblica viene proclamata. Eravamo ancora in mano ai traditori, ai governanti che cercavano un accordo col nemico per strangolare la Repubblica e per non cedere, come dicevano loro, alla Rivoluzione Rossa. Il 15 settembre, nel primo manifesto rosso, il popolo di Parigi chiese: la smobilitazione della polizia, l'elezione popolare dei magistrati, l'abrogazione delle leggi repressive, l'espropriazione delle derrate alimentari per causa di pubblica utilità, l'elezione degli ufficiali da parte dei soldati, distribuzione delle armi al popolo, il il controllo popolare della difesa. Meglio accordarsi con i prussiani piuttosto che cedere alla rivoluzione rossa. Come nel 1789 i potenti si alleano contro il popolo insorto. Meglio i prussiani della Marmaglia rossa. 19 settembre alle 5 del mattino i prussiani investirono Parigi con tutte le loro armate. In 2 milioni restammo chiusi dentro la città, sotto i bombardamenti. I generali e il governo trattano segretamente col nemico. Per dimostrare che erano pronti a combattere, ci inquadravano e ordinavano sortite contro gli assedianti. Uscivamo in 500, ritornavamo meno di 10. Generali, banchieri, governanti, tutti coloro che comandavano e che erano riusciti a mantenere il potere, più che recare danni al nemico, volevano decimare i rivoluzionari parigini. I rossi all'interno provocano disordini più gravi e permanenti dei prussiani all'esterno. Il popolo è più forte di 1000 generali, di 10.000 banchieri, di 100.000 padroni. Parigi non si poteva difendere senza armare la sua classe operaia. Ma Parigi in armi voleva dire rivoluzione armata. Ed una vittoria di Parigi sugli aggressori prussiani sarebbe stata una vittoria dell'operaio francese sul capitalista francese. In questo dissidio tra il dovere nazionale e l'interesse di classe, il governo non badò un momento solo alla difesa nazionale, ma si trasformò in governo del tradimento nazionale. Il vero pericolo per la Francia è il pericolo rosso. L'Europa intera è in pericolo. La Tchurgée sovraino c'est l'homme. Qui n'est plus la bête de somme, qui n'obéit qu'à la raison. Assedio significa soprattutto fame. 16 ottobre. Non c'è più burro, non c'è più formaggio. Mancano il latte e le uova. 22 ottobre. Mangiamo cavallo sotto tutte le forme. Nella vetrina di un salumiere ho visto un cartello che diceva salame cavalleresco. 27 novembre. Ieri abbiamo mangiato cervo, avantieri orso, i 2 giorni precedenti antilope, oggi lupo. Sono i regali del giardino zoologico. 3 dicembre. Si fanno pasticci di topo. Dicono che sono buoni. 30 dicembre. Non è più cavallo quello che mangiamo. Forse è topo, forse è cane. Mangiamo l'ignoto. In 5 giorni i prussiani ci hanno mandato 25.000 proiettili. Sono corsi per trasportarli 220 vagoni. Ogni colpo costa 60 franchi, totale 1,5 milioni di franchi. Il danno recato ai forti è valutato a 1.400 franchi. Ci sono state 10 di vittime. Ciascuno dei nostri morti costa ai prussiani 150.000 franchi. Mangiamo il cavallo, il topo, l'orso e l'asino. Parigi è tanto circondata, murata, legata, sorvegliata che il nostro ventre ormai è l'arca di Noè. Un chilo di gruviera, 60 franchi. Un chilo di lardo, 44. Un gatto, 15 franchi. Un topo, 2,25. Un uovo, 2,75. Signori, il menù. Consomme di cavallo al miglio. Spiedini di fegato di cane alla maître d'hôtel. Lombatini di gatto in salsa maionese. Filetto di cane in salsa di pomodoro. Gatto in salmì con contorno di funghi. Cotolette di cane con contorno di pisellini. Topo in salmì alla Robert. Arrosto di cane con contorno di pasticcini al formaggio. Insalata di scarole. Succo di begonia. Torta al succo e midollo di cavallo. Frutta, vini. Poi cominciamo a capire il motivo per cui il governo era inerte. Un giovane funzionario, Florent, comandante di battaglione della Guardia Nazionale, proclama apertamente che la difesa di Parigi è nient'altro che una menzogna e una messa in scena. Il 15 ottobre, con 10.000 uomini, marcia sull'Hôtel de Ville per imporre la volontà popolare al generale Trochu, governatore militare di Parigi. Signor Florent, le sortite senza scopo di ampie masse di uomini indisciplinati sono solo pericolose. Il vostro posto è sui bastioni e non all'Hôtel de Ville. Florent si ritira con le sue truppe. Ma dopo la notizia della resa al nemico del generale Bazin a Metz, il 31 ottobre le guardie nazionali investono nuovamente l'Hôtel de Ville e prendono prigioniero Trochu. Ma perdono troppo tempo a discutere, le truppe fedeli al governo ristabiliscono l'ordine. Il questore di Parigi fa arrestare 22 capi degli insorti. Lo spettro rosso è in realtà un innocuo fantasma. Il 6 gennaio il comitato dei 20 arrondissements pubblica il secondo manifesto rosso. Con la loro inerzia, la loro indecisione, coloro che ci governano ci hanno condotti sull'orlo dell'abisso. Non hanno saputo né amministrare né combattere. Si muore di freddo, di fame, sortite senza scopo, lotte sanguinose senza risultato, insuccessi a ripetizione. Il governo ha dato la misura di quello che vuol fare. Ci uccide! Il destino di questo regime è la sconfitta. Ormai la politica, la strategia, l'amministrazione del 4 settembre ereditata dall'impero sono giudicate. Largo al popolo, largo alla comune! Il 19 gennaio, il governatore di Parigi ordina una sortita in massa verso i forti di Montreteau. Gli scontri sono particolarmente aspri a Buzenval, ma i francesi riescono a progredire. Improvvisamente un ordine di Trochu sospende l'avanzata. Senza utilizzare le riserve ammassate sotto il forte di Mont-Valérien, il generale ordina la ritirata e chiede al nemico un armistizio di 2 giorni per raccogliere morti e feriti. E di fronte alle proteste degli ufficiali e dei sindaci di Parigi, afferma: ogni resistenza è divenuta impossibile. Dobbiamo capitolare. Per 4 mesi di assedio, Parigi aveva accettato tutto. La fame, la peste, tutto, salvo la capitolazione. Quando la parola risuonò, ci fu dapprima uno stupore enorme, come davanti ai crimini mostruosi contro natura. Le piaghe di questi 4 mesi si inaspriscono, gridano vendetta. Il 21 gennaio, un gruppo di guardie nazionali guidate dal garibaldino Cipriani libera gli arrestati del 31 ottobre. Il governo si riunisce immediatamente e sostituisce il governatore militare di Parigi, Trochu, col generale Vinoir. Eravamo 100.000, 200.000. Sembrava che fossimo 10 milioni in corteo quando andammo a circondare l'Hôtel de Ville. In testa a tutti marciava Louise Michel. Il popolo la chiamava la Vergine Rossa. Una puttana! Una puttana e 12 delinquenti alla testa di un branco di ladroni, di manigoldi, di tagliaborse. I gendarmi ci spararono addosso. Allora fuggimmo in tutte le direzioni. La gente intorno a me cadeva. Alla mia sinistra vedo un giovane accasciarsi nel fango giallastro. Alla mia destra uno spettatore con capello a cilindro viene ucciso sul colpo. E intanto il governo si prepara a chiedere l'armistizio ai prussiani. È ora di finirla con quella canaglia. Non possiamo combattere su 2 fronti. Bisogna chiedere subito un armistizio. Non è più possibile attendere. Manderò un messaggio a Bismarck per ottenere un cessate il fuoco immediato e organizzare un incontro con lui. Con la massima segretezza. Dio solo sa cosa ci farà la plebaglia parigina quando saremo costretti a dirle la verità. Bismarck per i prussiani e Jules Favre per i francesi si incontrano non come nemici, ma come complici, appartenenti a una stessa classe, difensori degli stessi privilegi. E così vi siete decisi a trattare? Signore, l'eroica resistenza dei parigini. Ah, sono orgogliosi della loro resistenza. Bene, signor ministro, lasci che le dica che se quel Trochu fosse un generale prussiano, io stasera lo farei cucinare. Non mi parli della resistenza condotta da certa gente. È criminale. Quali sono le vostre condizioni per un onorevole armistizio? Sospensione immediata delle ostilità a Parigi e dentro 3 giorni in tutta la Francia. L'esercito deve consegnare armi e bandiere. Gli ufficiali potranno conservare le spade. I forti periferici di Parigi saranno occupati dalle nostre truppe e i cannoni dei bastioni dovranno essere gettati nei fossati. Immediato pagamento di un acconto di 200 milioni di franchi in conto indennità di guerra. Disarmo della Guardia Nazionale di Parigi. Questo no. Non posso a nessun costo disarmare la Guardia Nazionale. Significherebbe scatenare la guerra civile. Siete degli sciocchi. Presto o tardi la Guardia Nazionale dovrà essere ridotta alla ragione. Non otterrete niente aspettando, anzi, vi do un consiglio. Provocate una rivolta ora che avete ancora un esercito per reprimerla. Comunque, se non ve la sentite, lasciate pure le armi alla canaglia, ma in tal caso, per le esigenze dell'ordine pubblico, non posso lasciarvi più di una divisione di soldati. La tregua scadrà il 19 febbraio. Fino a quel giorno nessun prussiano entrerà in Parigi. In questo periodo la Francia dovrà provvedere a costituire un nuovo governo tramite libere elezioni, governo che riterremo il solo abilitato a trattare la pace con noi. E così è fatta, siamo venduti. Parigi ha capitolato. Il governo ci consola parlando di armistizio, ma le persone oneste e in buona fede sanno che quella parola vuol dire sconfitta. Che cosa possiamo fare? Soltanto maledirli e esacrare i loro nomi, insegnare un giorno ai nostri figli a condannarne la memoria. L'8 febbraio si tengono le elezioni in tutto il paese e il 13 febbraio si riunisce a Bordeaux un'assemblea nazionale formata in stragrande maggioranza da deputati monarchici e dalla destra rurale più retriva. Oltre 430 contro i poco più dei 150 deputati repubblicani. In pratica, solo Parigi ha inviato deputati rossi. Tra i repubblicani figurano personalità come Clemenceau, Rochefort, Victor Hugo e Giuseppe Garibaldi, accorso in aiuto dalla Repubblica Francese dopo la caduta di Napoleone III. Ma la nomina di Garibaldi scatena l'opposizione dei monarchici, che riescono a farla annullare. Il 17 febbraio, questa assemblea reazionaria, subito detta dei rurali, elegge Thiers a capo dell'esecutivo. Lo autorizza a firmare la pace con i prussiani, a durissime condizioni, e adotta anche 3 misure contro il proletariato parigino in armi: la soppressione del soldo della Guardia Nazionale, la soppressione della moratoria per il pagamento dei debiti e quella della sospensione degli affitti. Tutte misure tendenti a disgregare la Guardia Nazionale. Noi non pagheremo! I proprietari non possono avanzare alcuna pretesa contro coloro la cui unica ricchezza è il lavoro quotidiano che adesso non c'è. Pagheremo quando potremo. E molti di noi non pagheranno mai. Non accettiamo l'armistizio. Thiers e i suoi lacchè hanno concesso ai prussiani di occupare i quartieri dove ci sono i nostri cannoni. Dobbiamo salvarli. Il Comitato Centrale dei 20 Arrondissements adotta questa risoluzione. Tutti i membri del Comitato di Vigilanza devono dichiarare di appartenere al Partito dei Socialisti Rivoluzionari, di volere e di cercare di ottenere con tutti i mezzi possibili la soppressione dei privilegi della borghesia, la sua fine come casta dirigente e l'avvento dei lavoratori al potere politico. In una parola, l'uguaglianza sociale. Non più padroni, non più proletari, non più classi. Essi riconoscono il lavoro come unica base dell'assetto sociale. Il prodotto integrale del lavoro deve appartenere al lavoratore. Il Comitato riconosce come unico governo della città la Comune Rivoluzionaria. 27 febbraio 1871. Abbiamo sottratto ai prussiani un gran numero di cannoni. Abbiamo scavato trincee. Ci prepariamo a resistere. Il 18 marzo 10.000 soldati del governo invadono Piazza della Bastiglia e circondano il quartiere. Vogliono portarci via i cannoni. Ore 7. Butte-Chaumont è stata occupata dalle truppe governative senza incontrare particolare resistenza. Ore 8. Montmartre è stata occupata dopo un breve scontro. A Belleville permangono alcuni focolai di resistenza. Ore 9. Le bandiere rosse di Piazza della Bastiglia sono state abbattute. Ore 10. A Montmartre le truppe regolari non hanno voluto reagire all'assalto della folla. Le postazioni, i pezzi di artiglieria e i prigionieri sono nelle mani degli insorti. Il generale Lecomte è stato fatto prigioniero. Ore 11. Il Lussemburgo è stato invaso dalla Guardia Nazionale che fraternizza con la truppa. Ore 11:30. Una manifestazione di circa 200 individui, di cui una buona metà soldati regolari che hanno disertato, è arrivata sulla piazza dell'Hôtel de Ville. C'è un'unica soluzione radicale per salvare il paese. Occorre evacuare Parigi interamente e subito. Questa che scoppia è un'insurrezione formidabile e dobbiamo assolutamente proteggere l'assemblea di Versailles. Io ho dei doveri verso Parigi, ma ne ho molti di più verso la Francia. Sono io che ho fatto trasferire l'assemblea da Bordeaux a Versailles e non voglio compiere nulla che possa compromettere la sua sicurezza. E poi non si combatte Parigi in Parigi. Bisogna fare il vuoto. Montmartre, ore 16. Mentre i ministri fuggono da una porta secondaria di Rue de l'Université, il generale Lecomte e i suoi ufficiali prigionieri vengono trasferiti al posto della Guardia Nazionale di Rue de Rosiers. Durante il tragitto, i militari vengono quasi linciati dalla folla e dai loro stessi soldati. Il popolo li riconosceva e vedendoli ricordava le stragi di cui erano responsabili, i massacri, l'odio che li animava. Le Guardie Nazionali non riuscirono a fermare la vendetta. Li spinsero contro un muro e tutti quelli che possedevano un fucile si fecero avanti. La folla che riempiva il giardino si riversò per la strada in preda a una vera crisi isterica. Vi erano chasseur, soldati di linea, guardie nazionali, donne e bambini. Tutti urlavano come degli animali feroci, senza sapere quello che facevano. Vidi allora quel fenomeno patologico che si potrebbe definire sete di sangue. Un soffio di pazzia sembrava essersi impadronito della gente. Gli uomini ballavano scontrandosi tra loro in una specie di furia selvaggia. Era una di quelle straordinarie esplosioni nervose, così frequenti nel Medioevo, che ancora avvengono tra le masse umane in preda ad un'emozione primordiale. Alle 7 del pomeriggio circondammo l'Hôtel de Ville. Ferry, che vi si è rinchiuso con gendarmi e truppe fedeli, è deciso a resistere. 2 ore dopo, Ferry, abbandonato da tutti i suoi gendarmi, fugge da una finestra del retro. Occupammo il municipio. Furono accesi tutti i lampioni e issata la bandiera rossa sull'edificio. Il movimento generale continua a nostro vantaggio, ma non abbiamo il sopravvento dappertutto. Le cose vanno bene, ma bisogna diffidare di un ritorno offensivo. A Versailles, Thiers e il governo continuano ad organizzarsi. Il presidente del consiglio, capo del potere esecutivo, ai prefetti, sottoprefetti, generali comandanti le divisioni militari, prefetti marittimi, primi presidenti delle corti d'appello, procuratori generali, arcivescovi, vescovi, parroci, sindaci, ufficiali dello stato civile, esattori delle imposte. Tutto il governo è riunito a Versailles. L'assemblea vi si riunisce regolarmente. L'esercito, in numero di 40.000 uomini, vi si è concentrato in buon ordine, sotto il comando del generale Vinoir. Tutte le autorità, tutti i capi dell'esercito sono arrivati. Le autorità civili e militari non eseguiranno altri ordini che quelli del governo residente a Versailles, sotto pena di essere considerati spergiuri. I membri dell'Assemblea nazionale sono invitati ad accelerare il loro ritorno per essere tutti presenti alla seduta del 20 marzo. Contemporaneamente all'Hôtel de Ville di Parigi comincia la grande lotta tra le due anime della rivolta del 18 marzo. Quella legalitaria e puramente difensiva e quella rivoluzionaria che reclama un'autentica presa del potere da parte del proletariato. Le due posizioni vengono illustrate da 2 proclami contraddittori, firmati entrambi dal Comitato Centrale della Guardia Nazionale. Il nuovo governo della Repubblica ha preso possesso di tutti i ministeri e di tutte le amministrazioni. La prefettura di polizia funziona. Le amministrazioni riprendono la loro attività. Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e l'ordine più perfetto. Il Comitato Centrale non intende prendere il posto di coloro che sono stati scacciati dalla collera popolare e afferma che rimane nel limite espresso del mandato che gli è stato dato dal popolo di Parigi. Voi ci avete incaricati di organizzare la difesa di Parigi e dei vostri diritti. In questo momento il nostro mandato è finito e noi ve lo restituiamo. Preparate dunque e fate subito le elezioni comunali. Nel frattempo, noi rimaniamo all'Hôtel de Ville in nome del popolo. Inutilmente Brunel, Théophile Ferré, Rigaud e alcuni capi più lungimiranti insistono sulla necessità di proseguire la rivoluzione vittoriosa con le armi e non con le parole e la legalità. Si sarebbe dovuto marciare immediatamente su Versailles. Invece, per scrupolo di coscienza, si lasciò passare il momento favorevole. Non si volle cominciare la guerra civile, come se quell'aborto di Thiers l'avesse già cominciata. Il più grande crimine per un popolo libero, la rivolta contro la sovranità nazionale, aggiunge nuovi disastri alle disgrazie del nostro paese. Criminali insensati non si sono vergognati di portare il disordine, la rovina e il disonore a Parigi. Hanno insanguinato la città, crimine che solleva contro di loro tutta l'opinione pubblica. Contrariamente ai timori dei borghesi, la Comune commetterà il gravissimo errore di rispettare l'oro ammassato nella Banca di Francia. E mentre la Comune ritirerà in tutto 15 milioni, la stessa banca fornirà di nascosto 260 milioni a Thiers per consentirgli di armare l'esercito che doveva schiacciare la Comune. Parigi vive in una situazione caotica e stravagante. Mentre all'Hôtel de Ville si continua a discutere aspramente, il popolo festeggia la libertà riconquistata. Ma c'è anche chi a Parigi è deciso a tentare la carta della restaurazione. Gli amici dell'ordine manifestano il 21 in piazza della Bourse in Place Vendôme. Il giorno dopo tornano in forza in Place Vendôme davanti alla sede centrale della Guardia Nazionale. La marea umana avanzava per Rue de la Paix riempendola completamente. È impossibile immaginare l'orrore che ci prese quando sentimmo il rombo di un cannone e, guardando verso il basso, vedemmo la strada piena di fumo. Urla di terrore e gemiti spaventosi giunsero alle nostre orecchie. Qualcuno mi trascinò dentro e chiuse la finestra per impedire gli orribili rumori di entrare. La strada era piena di morti e feriti. Mr. Hotikor, il banchiere, fu colpito al braccio. Gli amici dell'ordine fuggirono a tutta velocità, mentre i feriti furono lasciati al soccorso dei negozianti e i morti abbandonati là dove erano caduti, in attesa che giungesse ulteriore aiuto. Fu tutto così spaventoso. Nessun cannone sparò! E basta pensare che se i comunardi avessero sparato ad altezza d'uomo, ci sarebbero state almeno 200 vittime in quella massa compatta. È chiaro che non ci sarà conciliazione di nessun genere. I versagliesi passano alla controffensiva, occupando quella fondamentale posizione strategica che è il forte di Mont Valérien, evacuato il 18 e incredibilmente mai occupato dagli insorti. All'Assemblea Nazionale, Jules Favre attacca violentemente il pugno di scellerati al servizio di un ideale sanguinario e rapace che ha occupato Parigi. Intanto la rivoluzione sembra guadagnare terreno anche nel resto della Francia. Viene proclamata la Comune il 22 marzo a Lione, il 23 a Marsiglia e Tolosa, il 24 a Saint-Étienne e Narbona. Ma è un fuoco di paglia. In pochi giorni l'ordine viene ristabilito dappertutto. A Parigi, dopo tutta una serie di manovre dilatorie, vengono finalmente annunciate le elezioni municipali per il 26 marzo. Questa rivoluzione che i nostri padri hanno cominciato e che noi portiamo a compimento si compirà senza lotta sanguinosa, grazie all'onnipotenza della volontà popolare che si pronuncerà deponendo la sua scheda nell'urna. Il 26 marzo le tanto attese elezioni hanno luogo. Il 28 marzo la comune viene ufficialmente proclamata all'Hôtel de Ville. In 200.000 scendiamo all'Hôtel de Ville ad insediare gli eletti. Al centro dell'Hôtel de Ville, in corrispondenza della porta centrale, è stato innalzato un grande palco. Ranvier parla. Il comitato centrale rimette i suoi poteri alla comune. È con fatica che Ranvier, approfittando di un momento di pausa, può gridare: in nome del popolo, la comune proclamata! Questo sole tiepido e chiaro, questo profumo di fiori, il fremito delle bandiere, il mormorio di questa rivoluzione che passa tranquilla e bella come un fiume azzurro. Qualunque cosa accada ormai, la nostra generazione è consolata. Siamo stati ripagati di 20 anni di sconfitte e di angosce. Que la victoire qui nous combattait, fiers guerriers, rend à la France ses lauriers, son rang et son antique gloire. Chantons la liberté, défendons la cité. Ora che la nostra comune è stata eletta, l'attendiamo con impazienza alla prova dei fatti. Voglia Dio che questa soluzione energica si dimostri benefica e ci dia istituzioni veramente oneste e durevoli. Questo è ciò che tutti desiderano dopo aver subito tante delusioni. È abolita ogni distinzione tra potere legislativo e potere esecutivo. Tutti i membri della Comune sono tenuti a far eseguire i decreti votati dall'Assemblea. Tutti sono legati a un mandato imperativo dei loro elettori e quindi revocabile in qualsiasi momento. Gli stessi principi di eleggibilità e di revocabilità vengono estesi a tutti i funzionari pubblici. Con i decreti contro la prostituzione, il gioco d'azzardo, il furto e il saccheggio, per i quali c'è la pena di morte. È questa una delle principali misure di quella moralizzazione che la Comune dimostrerà di perseguire tenacemente, nonostante le proteste di alcuni vecchi giacobini libertari. Non venite più a prenderci in giro con tutte queste parolone vecchie e prive di senso. Probità, rispetto della proprietà, del diritto, del prodotto del lavoro, del risparmio, tutto spetta a noi proletari. Tutto ci ha dovuto e ce lo prenderemo. Capito, voi parolai dell'Hôtel de Ville? L'aria dei saloni dorati vi ha già corrotti. Avete un bello scrivere morte ai saccheggiatori. Noi saremo i più forti. Invece di distruggere i vecchi pregiudizi, voi li alimentate, li annaffiate di belle frasi sentimentali e morali. Invece di regolare con misure generali la restituzione che ci è dovuta, parlate e agite come se non aveste la minima nozione di quello che vuole ed esige il proletariato. E poi cos'è questo stupido pregiudizio del pudore, della decenza, della morale pubblica? Tutte parole create per sottrarre i godimenti naturali ai poveri e riservarli ai ricchi. Piantiamola quindi con tutti questi decreti. Non esiste decenza, né pudore, né vizio, né prostituzione. La natura non fa alcun caso a queste stupidaggini, ai suoi bisogni, le sue esigenze. E bisogna lasciarglieli soddisfare, come quando vuole, dopo una lunga attesa o al primo incontro, con chi ci piace. Solo che oggi quello che si serve sono le tue figlie, ricco, sono le tue donne. Devono rientrare a profitto del proletariato e di tutti. E me, non parlo per me personalmente, perché la mia età mi permetterà solo di assistere a questo grande spettacolo. L'attività legislativa della Comune è frenetica. In 9 settimane di vita emana ben 395 decreti, alcuni dopo accanite discussioni che durano giorni interi. La proposta che rischia di spaccare definitivamente in due la Comune è quella di istituire un supremo comitato di salute pubblica, come quello che nel 1793 instaurò il terrore in Francia. La proposta viene presentata dal vecchio giacobino Jules Millot, di fronte all'incalzare delle truppe di Thiers, ai continui rovesci militari della Comune e soprattutto alla temibile inefficienza del comitato esecutivo. Il decreto mio viene approvato per 45 voti contro 23, ma gli sconfitti non accettano il verdetto della votazione e si ritirano dall'Assemblea, lanciando un proclama al popolo di Parigi. Con un voto speciale e preciso, la Comune ha abbandonato il suo potere nelle mani di una dittatura, alla quale ha dato il nome di salute pubblica. La maggioranza della Comune si è dichiarata irresponsabile con quel voto e ha ceduto a quel comitato tutte le responsabilità della nostra situazione. La minoranza alla quale apparteniamo afferma al contrario l'idea che la Comune deve accettare tutte le responsabilità e non declinarne nemmeno una. Quanto a noi, vogliamo al pari della maggioranza il compimento delle riforme politiche e sociali, ma contrariamente al suo pensiero rivendichiamo in nome dei suffragi che rappresentiamo il diritto di rispondere direttamente dei nostri atti ai nostri elettori, senza nasconderci dietro una suprema dittatura che il nostro mandato non ci permette di accettare né tantomeno di riconoscere. Pertanto, non ci presenteremo più in assemblea. Ma i loro elettori si rivelano di tutt'altro parere e pochi giorni dopo li rispediscono all'assemblea della Comune dopo una serie di riunioni popolari, soprattutto nelle decine e decine di club politico-culturali dai nomi pittoreschi, nei quali il popolo di Parigi si riunisce per discutere assolutamente di tutto: politica, economia, cultura, arte, cucina. Cittadino, la proposta di Mio sul Comitato di Salute Pubblica è stata ben gustata da tutti i valorosi difensori della Comune che vanno a esporre il petto alle pallottole dei despoti versagliesi. Quindi la vostra protesta produce un pessimo effetto. Se qualche membro della Comune pensa di sfuggire al castigo della reazione, non sfuggirà certo a quella del popolo. Quindi, caro cittadino, non indietreggiare davanti ad alcuna misura rivoluzionaria. Ci sono quelli che vogliono discutere con che salsa è meglio mangiare il pesce e gli altri che dicono di prendere prima il pesce e poi si penserà come mangiarlo. I primi sono quelli importuni della minoranza. Gli altri hanno detto: prima bisogna vincere, non stiamo tanto a discutere. Quando avremo vinto, vedremo quali sono le riforme sociali da applicare. Nonostante le discussioni più oziose, i contrasti ideologici e personali, l'attività dell'Assemblea della Comune è frenetica. E anche se si disperde in mille rivoli emanando decreti ridicoli, come quello sui pisciatoi pubblici e sulla fiera del prosciutto di Parigi, si impegna nel compito di gettare le basi per una società più giusta, una repubblica laica e universale. Abolizione della coscrizione obbligatoria e soppressione degli eserciti permanenti. Tutti i cittadini sono chiamati a far parte della Guardia Nazionale, le cui cariche sono elettive. Proclamazione della libertà di coscienza, annullamento del bilancio dei culti, separazione della Chiesa dallo Stato. Insegnamento laico, gratuito, obbligatorio, creazione di scuole professionali. Creazione dello Stato assistenziale con l'apertura di collegi per orfani e mense gratuite per studenti. La Comune decide di adottare tutti i figli dei caduti in combattimento. Abolizione della polizia e di tutti i corpi separati dello Stato. Giustizia gratuita amministrata da giurie popolari elette dai cittadini. Riforma dei codici di commercio, delle tariffe doganali e delle tasse. Le tasse saranno uniche e progressive. Abolizione di tutti i monopoli, privilegi e immunità. Legge sui diritti sindacali, di riunione e di associazione. Riorganizzazione del lavoro su basi cooperativistiche e di autogestione per le grandi imprese pubbliche e per le fabbriche abbandonate. Partecipazione degli operai agli utili. Difesa e valorizzazione del lavoro femminile. Lotta contro l'assenteismo. Soppressione dei vecchi uffici di collocamento. Abolizione del lavoro minorile. Anche nel campo dell'arte e della cultura, la rivoluzione comunarda è fondamentale. Nell'arte, proclama Vaillant, lo sfruttamento è forse ancora più terribile che nelle fabbriche. Sotto la guida del pittore Courbet si crea la Federazione degli Artisti, nella quale, oltre ai cultori delle arti cosiddette belle o nobili, vengono federati anche gli artisti delle arti utili o industriali, come i decoratori, disegnatori di stoffe, eccetera, rivoluzionando il concetto stesso di arte e di cultura. Alla Federazione degli Artisti è demandata la gestione di biblioteche, musei, esposizioni, insegnamento delle arti figurative e applicate, concerti e spettacoli popolari. Mai come in questo periodo le sale del Louvre, delle biblioteche, le sale da concerto e i teatri rigurgitano di una folla attenta e appassionata. E nei club dai nomi pittoreschi si agita una vita politica e culturale nuova, vivificante. Ma mentre a Parigi si crea la società del domani, si dà l'assalto al cielo, secondo una definizione della Comune. A Versailles, a Francoforte, Thiers, Favre e Bismarck si accordano sul modo di schiacciare l'insurrezione parigina prima che si estenda in tutta l'Europa. In Germania, infatti, proprio nei giorni della Comune, Auguste de Bel proclama davanti al Reichstag: «Siatene certi, tutto il proletariato europeo guarda Parigi e vi ricorda che la lotta a Parigi è soltanto uno scontro di avamposti e che la questione principale in Europa ci attende ancora e che passeranno pochi decenni e il grido di battaglia del proletariato parigino, guerra ai palazzi, pace alle capanne, morte alla miseria e all'ozio, diventerà il grido di battaglia di tutto il proletariato europeo». Bismarck si affretta a riarmare e a restituire a Thiers un intero esercito di prigionieri francesi. E già 20 giorni dopo la proclamazione della Comune, una cintura di ferro e fuoco di 130.000 uomini comincia a stringere d'assedio Parigi, mentre la Comune, presa nelle sue discussioni, non riesce ad adottare efficaci misure militari. Da Londra, Carlo Marx scrive agli internazionalisti Varlin e Frankel: «La Comune sembra perdere troppo tempo ad occuparsi di inezie e polemiche personali. Si vede che ci sono altre influenze, oltre a quelle degli operai. Tutto questo non avrebbe importanza se voi aveste tempo per recuperare il tempo perduto». Ma ormai la partita è persa. È stata persa sin dal 2 aprile, quando i versagliesi hanno aperto le ostilità e hanno inviato gli squadroni di cavalleria ad occupare Courbevoie e Asnières. I soldati della Comune sono stati respinti con gravi perdite. Quelli caduti nelle mani dell'esercito regolare sono stati fucilati senza pietà. Gli insorti sono fuggiti precipitosamente, lasciando sul terreno morti e feriti. Le nostre perdite sono state quasi nulle. L'esasperazione dei nostri soldati era estrema e si è manifestata soprattutto contro i disertori che sono stati riconosciuti. I cospiratori realisti hanno attaccato. A dispetto della moderazione del nostro atteggiamento, hanno attaccato. Hanno iniziato la guerra civile contro le nostre guardie nazionali e sono stati morti e feriti. È nostro dovere difendere la grande città contro questi colpevoli aggressori. Col vostro aiuto la difenderemo. Parigi accoglie con stupore e rabbia le notizie di Courbevoie e immediatamente prepara quell'attacco in massa a Versailles che fin dal 18 marzo i rivoluzionari più accesi chiedevano a gran voce. All'alba del 3 aprile si scatena il contrattacco. Ma più che un'azione militare sembra una kermesse popolare. Disordine, confusione, ordine contraddittorio, armamento insufficiente. Vengono lasciati a Parigi ben 200 cannoni leggeri. Nessuno provvede a dotare le truppe delle necessarie scorte di munizioni e di cibo. Moltissime sono le donne che marciano fra i soldati, come per una scampagnata. Tutti pensano che i soldati versagliesi non spareranno e anzi fraternizzeranno con il popolo in armi, come è già successo il 18 marzo. Alcune donne sono armate, e si batteranno con grande coraggio. Andammo incontro ai versagliesi divisi in tre colonne, senza precauzioni, senza avanguardie. Colonna Bergeret-Florent in direzione di Rueil, colonna Eudes verso Meudon, colonna Duval all'attacco dell'altura di Châtillon. La colonna Bergeret-Florent viene presa ed infilata dai cannoni dei forti di Mont-Valérien, si sbanda, rifluisce disordinatamente verso Parigi al grido di «Siamo stati traditi!». Inutilmente Florent cerca di riorganizzarli. Disperato, procede ugualmente fino a Rueil, dove giunge verso sera scortato da Milcare Cipriani. Durante la notte viene tradito e denunciato ai gendarmi che si precipitano nella locanda dove i due stanno riposando. Il capitano De Marais si precipita su Florent gridando «È questo il Florent che spara sui miei gendarmi?» e gli spacca in due la testa con un colpo di sciabola. Cipriani viene trafitto da 20 baionette e lasciato per morto. I corpi dei due comunardi vengono caricati su un carretto e portati trionfalmente a Versailles, dove le signore eleganti si divertono a frugare il cervello di Florent con la punta dell'ombrellino. Et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche. Les mauvais os finiront. Et garde à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Anche le altre due colonne, dopo un breve successo iniziale, subiscono il giorno seguente la controffensiva versagliese. Duval cade prigioniero dei governativi, con centinaia di uomini ai quali è stata promessa salva la vita. Ma appena si sono arresi, tutti quelli che indossano anche solo qualche indumento della divisa regolamentare vengono passati per le armi. Un testimone di Versailles riferisce di aver visto arrivare 26 vetture cariche di 100 morti ciascuna. Duval e gli altri prigionieri vengono avviati verso Versailles, ma ben presto la colonna viene fermata dall'arrivo del generale Vinoy. Vinoy chiese se fra quelle schifose carogne c'era qualche capo della comune. Io, rispose Duval, se voi mi aveste nelle vostre mani come vi ho io adesso, cosa fareste di me? Chiese Vinoy. La farei fucilare, rispose Duval. Bene, ha pronunciato da solo la sua sentenza. Fucilatelo immediatamente, ordinò Vinoy. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard, les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les jeunes apprends de vous, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche les mauvais jours. Et garde à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. I prigionieri vengono ricevuti a Versailles in modo atroce. Vengono picchiati senza pietà. Ne ho visti di sanguinanti con le orecchie strappate, il volto e il collo lacerati come dagli artigli di una bestia feroce. Una corte marziale funziona sotto gli occhi del governo, il che significa che la morte falcia ai nostri concittadini fatti prigionieri. Le cantine in cui vengono gettati sono orribili buche. La comune emette un decreto. A ogni testa di patriota che Versailles farà cadere, una testa di ostaggio rotoli a Parigi. Ben venga il terrore, se Versailles vuole così. Ma in pratica ciò non accadrà se non negli ultimi giorni di vita della comune, quando già migliaia di comunardi sono caduti sotto il fuoco della repressione versagliese. Le esecuzioni dei comunardi non faranno più di 70 vittime, contro le quasi 30.000 dei versagliesi. Par des mouchards et des gendarmes, des sabres chaudes et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et garde à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le truppe di Versailles, il cui comando generale è stato affidato a MacMahon, circondano ormai Parigi da tutte le parti. Con i soldati concessi da Bismarck è stato costituito un esercito che aumenta di giorno in giorno. Di fronte a questi soldati armati e disciplinati, i comunardi in armi non sono più di 60.000, ma non saranno più di 20.000 quelli che si batteranno con il coraggio della disperazione fino alla fine. Domenica 21 maggio, alle Tuileries si tiene un gigantesco concerto popolare. L'orchestra suona il Domino Noir di Aubert, poi musiche di Mozart. L'attrice Madame Amard declama versi dei Castighi di Victor Hugo. Segue un coro di 200 voci che intona la Marsigliese. Un ufficiale comunardo sale sul palco e annuncia: cittadini, il signor Thiers aveva giurato di entrare ieri in Parigi. Oggi, 2 pratile dell'anno 79, il signor Thiers non è entrato e non entrerà mai. Vi invito per domenica prossima, qui, alla stessa ora, per il secondo concerto a profitto delle vittime di guerra. Già da alcune ore i soldati di Thiers sono entrati in Parigi dalle porte di Point du Jour. Comincia la settimana di sangue. Des orphelins, parisiens de la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est au conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche. Quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. I versagliesi potrebbero dilagare in tutta Parigi, stroncare in una sola notte la comune, ma vengono fermati da ordini precisi di MacMahon e Thiers. Il primo per eccesso di prudenza, il secondo per garantire all'esercito il tempo di compiere una vasta epurazione che liberi per almeno una generazione la Francia dal flagello rosso. La mattina del 16 maggio sul Figaro c'era scritto: chiediamo formalmente che tutti i membri della Comune, del Comitato Centrale e simili istituzioni che per 2 mesi hanno regnato sulla più bella e nobile città del mondo siano passati per le armi davanti al popolo radunato. Questi uomini che hanno ucciso per il gusto di uccidere e di rubare sono vinti. Queste orride donne che affondavano il coltello nel petto degli ufficiali agonizzanti sono vinte. Che cosa è un repubblicano? Una bestia feroce. Avanti, uomini onesti, un colpo di mano per finirla con questa canaglia democratica e internazionale. Il regno degli scellerati è finito. Non si saprà mai con quali raffinate crudeltà e con quanta barbarie hanno chiuso quest'orgia del crimine. 2 mesi di saccheggi, di furti, di assassini e di incendi. On tracolante, on fusille, tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les jeunes enfants de rouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y All'alba del 22 maggio il delegato della guerra dell'Escluse lancia un proclama in cui incita il popolo di Parigi alla guerra. Basta col militarismo. Basta con gli stati maggiori coperti di galloni, largo al popolo. È suonata l'ora della guerra rivoluzionaria. Il popolo non sa nulla di manovre dotte, ma quando ha un fucile in mano, le pietre del selciato sotto i piedi, non teme nessuno degli strateghi della scuola monarchica. Alle armi, cittadini, alle armi! Si tratta, voi lo sapete, di vincere o di cadere nelle mani degli spietati reazionari e dei clericali di Versailles, di quei miserabili che hanno consegnato la Francia ai prussiani e che ci fanno pagare il riscatto del loro tradimento. Se volete che il sangue generoso che è scorso come l'acqua da 6 settimane a questa parte non sia infecondo, se volete vivere liberi nella Francia libera ed egualitaria, se volete risparmiare ai vostri figli i vostri dolori e le vostre miserie, vi leverete come un solo uomo. E davanti alla vostra formidabile resistenza, il nemico, che si lusinga di farvi nuovamente piegare il collo sotto il giogo, rimarrà con la vergogna dei delitti inutili di cui si è macchiato da 2 mesi. La Comune conta su di voi. Contate sulla Comune. In poche ore Parigi si copre di barricate. I versagliesi occupano già un terzo di Parigi. L'Étoile, les Champs-Élysées, Saint-Lazare, la Gare de Montparnasse, la Porte di Versailles, la Parigi dei ricchi. Il popolo è barricato nei suoi quartieri. Bastiglia, Montmartre, Batignolles, i Faubourg. All'alba del 23 i versagliesi sfondano la barricata dei Batignolles. A metà mattina danno l'assalto a Montmartre, che a mezzogiorno è tutta occupata. In Rue de Rosiers, dove il 18 marzo sono stati fucilati i generali Thomas e Lecomte, viene istituito un tribunale straordinario che per tutta la settimana farà fucilare centinaia di uomini, donne e persino bambini di 11 e 12 anni, dopo averli fatti inginocchiare davanti al muro dell'esecuzione del 18 marzo. Refleuriront le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir, sans passe, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres et des curés. Oui, mais sabrant-le dans le manche, les mauvais finiront égal à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Parigi è un mare di fiamme. L'incendio è stato appiccato dai comunardi per ritardare l'avanzata del nemico. Nasce la leggenda delle pétroleuses, scatenate per tutta Parigi ad appiccare incendi con stracci imbevuti di petrolio. Molte donne, sorprese con bottiglie in mano, anche di latte, vengono immediatamente passate per le armi. È una follia furiosa. Non si distingue più l'innocente dal colpevole. Il sospetto è in tutti gli occhi. Il 25 maggio la Parigi comunarda è ormai limitata a Place Château d'Eau e al municipio dell'11° arrondissement. Ci si batte su una linea che va dalla porta Charenton alla Villette, passando dalla Bastiglia. Louise Michel, che ha combattuto fino allo stremo su una barricata, si è costituita prigioniera quando ha saputo che i versagliesi avevano preso la sua vecchia madre in ostaggio. Delescluze scrive un'ultima lettera alla sorella e si dirige verso le barricate di Rue Voltaire. Cara sorella, non voglio né posso servire da vittima e da zimbello alla reazione vittoriosa. Perdonami se me ne vado prima di te, che mi hai sacrificato la vita. Ma non ho il coraggio di subire un'altra sconfitta. Addio. Lo vidi salire sulla barricata che nessuno ormai difendeva più. Era vestito come sempre. Cilindro, finanziere, calzoni neri e la sciarpa rossa annodata alla vita. Senza guardare se qualcuno lo segue, Delescluze avanza con il suo passo tranquillo. È il solo essere vivente in quel tratto di Boulevard Voltaire. Arrivato alla barricata, scala lentamente il pavé ammucchiato. Per l'ultima volta vedo quella faccia austera inquadrata nella corta barba bianca rivolta verso la morte. All'improvviso scompare, è caduto fulminato. Les journalistes politiques marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les maximes du camp, les humains ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que ça marche de la sorte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu éclat comme une nèvre morte. Le truppe versagliesi continuano nella loro terribile rappresaglia. Il generale Califfé è il più spietato di tutti. Passa lentamente tra le file dei prigionieri, come se facesse un'ispezione. Ogni tanto si ferma, tocca un uomo sulla spalla e gli fa segno di spostarsi in avanti e di mettersi in una colonna che si forma così al centro della strada. I prescelti sanno chiaramente che è giunta la loro ultima ora. Una donna si getta in ginocchio davanti a lui, implorando pietà e protestando la sua innocenza. Califfé la fa fucilare. Venerdì 26 maggio. Ormai la resistenza è limitata praticamente al 20° arrondissement. Sabato 27 maggio. La resistenza è ormai ristretta a Belleville e al cimitero del Père Lachaise. Oltre 1600 comunardi cadono fra le tombe o vengono fucilati davanti al muro che prenderà il nome di Muro dei Comunardi. L'ultima barricata della comune cade a Luna, in Rue Ramponneau. Era rimasto un solo comunardo a difenderla. Masse di cadaveri costellano dappertutto le piazze e le strade. Ben presto cominciano a diventare un terribile pericolo per la città. Dalla sua lontana Charleville, Arthur Rimbaud intona il suo dolente canto per la comune. O città dolorosa, o città quasi morta, col capo e coi due seni rivolti all'avvenire, che schiuda il tuo pallore le sue innumeri soglie, o città che il passato forse benedirà, corpo magnetizzato per sofferenze immani, ecco che ora ti abbeveri alla vita terribile. Nel luglio 1871, mentre i plotoni di esecuzione falciano gli ultimi comunardi, Eugène Potier, nascosto in una soffitta della vecchia Parigi, scrive un canto di speranza, l'Internazionale. 20 anni più tardi diventerà l'inno della riscossa dei lavoratori. Avete ascoltato un audiolibro Mondadori.